Grandi novità ieri in Italia. Berlusconi attacca i giudici e la stampa di tutto il mondo. Nel Partito Democratico si apre la corsa alla segreteria. Napolitano ribadisce che le morti sul lavoro sono inaccettabili. Nel calcio, Marcello Lippi dice che l'Italia, per vincere, non ha bisogno di far spettacolo. Questo è il ballo del qua qua e di Papero che sa fare solo qua qua qua, il qua qua qua. Mamma Papero, papà, con le mani fa qua qua e una piuma vola già di qua e di là. Le ginocchia piega un po', poi scodinzola così, batti forte alle tue mani, fai qua qua. Con un salto vai più là, con le ali torna qua, ma che grande novità, il